adesso basta. Signorina, qui si esagera, è che mi attrae più della forza di gravità. Ma chi ti dà il diritto di perseguitarmi notte e giorno, di obbligarmi a averti attorno, a sognarti quando dormo? Un bacio come colazione che mi rende balbuziente, la mia reputazione ne risente. Sarà per questo sorriso da beota che si dice che sono partito a ruota, perché non cammino più, vola bassa quota. Prima ero sempre nota, chiamato lingua loca, ora dove vado con sta faccia da idiota? Sono in delirio primordiale e vederla ballare mi può incasinare l'equilibrio ormonale. Ma la musica è questa e non si ferma, batte interna e esterna, si alterna eterna, tu sei la mia conferma. Sa signorina se lei ne vuole o le parole, con un metro d'aria sotto le suole. Baila guapa loca, non è se fatta otra, si te miro salvo del mondo, dona vida e color a mi sueño. Baila guapa loca, y así cuesta tu pie, odio y rabia son solo pasado, dame música y cree mi sueño. Dopo il bla bla bla, e non leghiamoci troppo, tu mi stai addosso come un giubbotto, io appiccicato come un cerotto. Senti un botto, io sono un petardo, un miliardo di anni in ritardo su cose che prima vedevo soltanto. Adesso guardo un passo dall'infarto, non posso evitarlo, fisso il traguardo con la tua faccia sulla bandiera. Da Milano si viaggia fino a una spiaggia con sabbia di frontiera. Portami via subito, non dubito di darti la vita, se vuoi puoi farmi da medico mentre gioco questa partita. Frequenza di K sintonizzata per essere degno di chiamarti. Dammi il rimedio, pozioni contro l'ordinarietà, un episodio ai confini di questa realtà. Sarà il colore di ogni mio disegno, il mio sostegno ed il mio regno impegno. Baila guapa loca, non me se falta otra, si te miro salvo del mundo, dona vida y color a mi sueño. Donde llega la playa, tus manos gaviotas de países lejanos me cuentan tu historia. Segmenti urbani invernali assumono sapori tropicali quando le tue mani sensi miei consumano. Per quel tuo panorama che non si nomina, in quei secondi di nirvana dove ci guardiamo l'anima. Qui non si capisce, sono bendato e sto attraversando fuori dalle strisce. Musica che cresce solo per lei, che balla per strada con tutto il mondo che le fa da DJ. Baila guapa loca, non mi hace falta otra, si te miro salvo. Categoría.